Sezione 11 di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Ragioni metriche. Rompeste voi il Tevere a nuoto, Clelia, come l'antica vostra o a noi nuova Rea Silvia uscite? Scarso, o nipote di Rea, l'endecasillabo al passo a misurare i clivi delle bellezze vostre. Solo col piè trionfale l'eroico esametro puote scander la via sacra delle lunate spalle. Dall'arce capitolina del bel fidiaco collo, pender ghirlanda albana il pentametro deve. Batte nel raggio degli occhi che fiero corrusca sì come tra i colli prenestini fulvo l'occiduo sole, batte l'alcaica strofe trepitando l'ali e si scalda ai forti amori, indietro tu settenario vile. Oh, sulla chioma ondosa che simile a notte discende, pel crepuscolo pario delle doriche forme, alle serve lasciate, o nipote di Rea, gli ottonari, corona aurea di stelle splenda la Sclepia Dea. Fine della sezione 11. Registrazione di Graffiacane.